giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Traffico da Bollino Nero nel secondo fine settimana di esodo, per ora solo rallentamenti in A4. Non solo turismo culturale, italiani e stranieri scoprono il mare di Trieste, affollano i lidi cittadini. Per trovare un po' di fresco si sale in montagna, molti turisti anche sul Lussari, la vetta dei tre confini. Boschi infestati dalle zecche, l'effetto del grande caldo e i medici consigliano il vaccino. Il governo non impugnerà lo straordinario di infermieri e medici, 50 e 100 euro l'ora. Fa discutere la demolizione dei vecchi padiglioni dell'ospedale di Pordenone, sindaco e regione, ristrutturare costa troppo. Vertenza Barzile, i segretari nazionali dei metalmeccanici chiedono un nuovo incontro al ministro Giorgetti. In mostra a Trieste tesori, le memorie ritrovate, recuperate e conservate degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Calcio, l'Udinese passa il turno di Coppa contro Feralpi Saloro, si guarda l'esordio in campionato sul campo del Milan. 7:19 minuti di sabato 6 agosto, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Subito uno sguardo alla situazione meteo: il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 6. A Trieste 25,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27,5 gradi. A Udine 25,5 gradi, a Pordenone 22, a Gorizia 21, a Tolmezzo 21 gradi, a Forni di Sopra 17. 15 gradi sul Piancavallo, 14,5 a Tarvisio, a Sappada 13 gradi, sul Monte Zoncolan 16,5 gradi, sul Lussari 15, sulla costa a Lignano 27 gradi, a Grado 25, temperatura del mare nelle due località 29 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso o variabile su pianure costa, da variabile a nuvoloso in montagna. Dal primo pomeriggio saranno probabili rovesci o locali temporali sui monti, che in seguito potranno interessare localmente anche pianure costa. Non è escluso qualche locale temporale forte, anche se con bassa probabilità. Fino al primo pomeriggio farà ancora caldo, specie in pianura. Soffrirà bora moderata, specie sulla costa. Secondo fine settimana di grande esodo e quindi da Bollino Nero sulla rete di autovie venete, con numeri che si avvicineranno secondo le previsioni a quelli del precedente weekend. Al momento si registrano rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione Trieste, oltre che nel tratto compreso tra Monfalconeste e Duino, sempre in direzione Trieste. Il mare ha toccato i 30 gradi, temperature così si erano già viste, ma non per un periodo così lungo. A Trieste boom di presenze negli stabilimenti e per la prima volta tanti sono i turisti. La città quindi non è più solo meta turistica e culturale, ma anche balneare. Per i più freddolosi questo è il loro momento, niente di più bello che immergersi nell'acqua di Ferragosto. A Trieste è cristallina e calda, le temperature 27-30 gradi, ma non sono una novità, la durata invece sì. Paola Del Negro, direttrice OGS. Certamente abbiamo già registrato temperature alte negli anni passati, quest'anno in particolare perdurano da moltissimo tempo, effetto dei cambiamenti climatici. E se ancora non conosciamo le conseguenze nel lungo periodo di questo caldo consistente del nostro mare, è difficile oggi non goderne. Ecco che a Trieste boom di presenze negli stabilimenti balneari e per la prima volta ci sono tanti vacanzieri che scelgono la città non solo per le sue bellezze artistiche, e ce lo racconta chi da 17 anni fa il bagnino a Grignano. Quello che ho notato è un'affluenza enorme, dico enorme, di turisti rispetto agli altri anni, non dove i turisti, soprattutto quelli stranieri, ci venivano poco, vengono a visitare la città, fa caldo, il clima ci aiuta e vengono, soprattutto il pomeriggio, abbiamo una grossa affluenza di turisti. Ed in effetti li incontriamo, soprattutto di stranieri, come questa famiglia ungherese. Abbiamo preso il traghetto dalla città per visitare il castello di Miramare e ora ci godiamo dei bei bagni. Confermano la presenza di vacanzieri anche allo stabilimento di Barcola, rinnovato da qualche anno, dove parliamo con alcuni bagnanti. La costa triestina penso che sia bellissima, per cui quest'anno resto in città, resto a Trieste. Pur essendo romana, è un mare pulitissimo e lo adoro. Ingresso esclusivo, aperto solo a dipendenti o ex dipendenti delle forze dell'ordine, il bagno militare di Barcola, rimasto chiuso per 3 anni, tornato fruibile la scorsa estate con un nuovo impianto fognario e progetti per un'imponente ristrutturazione futura. Quante estate ha passato qui? 50, almeno 50 anni da quando ero sottotenente dell'esercito. Sono venuto qua per la prima volta e poi sono venuto ogni anno. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Non solo mare, chi cerca un relativo refrigerio sceglie la montagna e una delle mete predilette resta il Lussari. A valle il viavai di bici è continuo sulla ciclabile. Poco più là la telecabina non viaggia quasi mai a vuoto. Una bella estate 2022 per il Monte Lussari, con numeri che hanno raggiunto il pre-pandemia. Alessandro Spaliviero, responsabile della telecabina del Lussari. Siamo contenti, sta andando molto bene la stagione, c'è un ritorno degli stranieri, c'è una riscoperta anche da parte degli italiani e non solo turismo religioso. Comunque il santuario sacro italiani, sloveni e austriaci continua ad attrarre numerosi pellegrini che erano stati in parte fermati dalla pandemia. Noto che arrivano più persone, è anche più facile organizzare i gruppi che per 2 anni era molto difficile, allora arrivano in pullman, arrivano i gruppi più grandi, sì. Le messe celebrate da padre Peter Lach in 3 lingue rappresentano inoltre una piacevole sorpresa per chi arriva da lontano. È molto emozionante, particolare e non mi era mai accaduto. Turisti stranieri italiani salgono sulla cima per lo scatto giusto da condividere con gli amici e per cercare un po' di refrigerio a quasi 1800 metri sul livello del mare. Nonostante il sole c'è un po' di fresco, quindi ci si gode comunque. Per voi spuntino con vista. Sì, bellissimo, meglio di così non trovi. Tra negozietti e ristoranti i turisti apprezzano una bella giornata, tra chi è qui per la prima volta e chi invece conosce già bene questo posto. Ci venite volentieri? Sì, sì, fare un girettino. Ultima volta qui? Un anno fa. Io sono rumena, però abito da 20 anni in Italia e qui ho trovato un posto speciale. I lavori per il rifacimento della strada sono giunti in cima, termineranno entro un paio di mesi. Qui nel 2023 potrebbe arrivare il Giro d'Italia, ma vanno ancora definiti alcuni dettagli tecnico-logistici. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'assenza di piogge provoca cambiamenti drastici nel contesto naturale. Un esempio in Valle Rosandra, dove in molti temono anche le conseguenze dei lavori ferroviari sul carso sloveno. Cambiamento climatico e attività dell'uomo impattano sul fragile ecosistema del Carso. Ne è un esempio la Val Rosandra, una volta ricca d'acqua e da almeno un anno ormai sempre più secca, col torrente ridotto a poco più di un rigagnolo e le falde acquifere ai minimi storici, effetto della grande siccità che asseta il bosco al confine estremo d'Italia. Sentiamo Luca Zini, che insegna geomorfologia e geologia all'Università di Trieste. Siamo ai minimi storici, cioè la portata delle sorgenti, alcune si sono seccate e altre hanno portate decisamente molto basse. Quindi noi abbiamo avuto già a marzo un picco negativo nei livelli e a questo picco negativo si è sommata quest'estate eccezionale. Quindi siamo in una situazione di estrema sofferenza e Rosandra ne risente perché di acqua ce n'è ben poca. Ma non è solo la grande sete a mettere in pericolo quest'area. Sopra la Val Rosandra, in Slovenia, ci sono i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria Capodistria-Divaccia, un percorso in gran parte interrato che alcuni temono possa impattare pesantemente sul sistema di cavità carsiche e delle acque che vi scorrono. Ma è davvero così? Non rappresenta un rischio, nel senso che non è che porterà via le acque alla Val Rosandra direttamente, però naturalmente più ci si avvicina alla falda e diciamo minore la protezione che viene data dalle rocce dal suolo e quindi qualsiasi attività potrebbe portare ad un impatto. Abbiamo riscontrato che tra la zona diciamo di realizzazione del tunnel c'è anche una connessione verso le acque del Timavo, tanto per dire l'abisso di Trevigiano, che era un po' inaspettata come via di drenaggio delle acque sotterranee. È importante da parte italiana continuare a monitorare e a tenere sotto controllo, cioè quanto fatto permetteva di fare un quadro diciamo sulla situazione prima della realizzazione del tunnel, è importante che anche in fase di realizzazione e dopo di esercizio si osservi appunto che non ci sia alcun problema per quello che riguarda le acque in primis sotterranee. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il grande caldo e i cambiamenti climatici hanno reso più diffuse e più voraci le zecche. Prati non sfalciati o boschetti i loro luoghi preferiti, e trovarsene una addosso è sempre più facile. Per rimuoverle serve cautela. Se poi compare un alone rossastro che tende ad allargarsi, o febbre, mal di testa, debolezza, dolori articolari o ingrossamento dei linfonodi, è importante rivolgersi al proprio medico curante. Ma sentiamo Maurizio Ruscio, noto medico e docente universitario, presidente del gruppo italiano per lo studio della malattia di Lyme. Le zecche risentono dell'aumento della temperatura terrestre, tant'è che alcune malattie che trasmettono sono considerate uno dei 50 indicatori di aumento del clima terrestre. Come evitare queste punture? È molto complesso, perché ormai le troviamo un po' dappertutto, anche negli ambiti cittadini. Bisogna guardarsi bene con attenzione il corpo, specialmente se si fanno delle escursioni, vestirsi quanto più possibile e, quando, qualora si rilevi una presenza nel corpo, levarla subito accuratamente. Ci sono dei vaccini o delle vaccinazioni da poter fare? Sì, quest'anno stiamo osservando un incremento veramente marcato della malattia che viene trasmessa da questi parassiti, difendibile con una vaccinazione. Mi riferisco all'encefalite da virus e TBE. La nostra regione è stata la prima a livello internazionale a fare vaccinazioni gratuite. Quest'anno evidentemente la pressione dell'aumento di questi parassiti induce un incremento anche di queste forme di encefalite da virus TBE. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. L'andamento dell'epidemia da coronavirus: ieri in regione sono stati registrati 934 casi positivi. L'incidenza settimanale è calata a 644 casi ogni 100.000 abitanti. Oltre 5.500 i test effettuati, con un tasso di positività di oltre il 16%. 3 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dunque uno in meno rispetto al giorno precedente, 259, dunque 12 in meno, quelli negli altri reparti. 2 decessi registrati ieri, di cui uno a Udine e uno a Trieste. Non sarà impugnato dal governo l'intervento legislativo regionale che fissa in 100 euro la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive dei medici e in 50 euro quella degli infermieri impiegati nei servizi di emergenza e urgenza fino al 31 dicembre 2023. A darne notizia il vice governatore Riccardi, specificando che le tariffe saranno applicate anche per i turni aggiuntivi dei medici e degli infermieri che lavorano nei reparti in cui si registrano maggiori tassi di assenza. Il governo invece è impugnato e la regione resisterà alla parte della norma che riguarda l'impiego di specializzandi e l'esclusività dell'esercizio della professione infermieristica. Restiamo in ambito sanitario. A Pordenone tiene banco la polemica sulla sorte dei padiglioni del Santa Maria degli Angeli dopo l'imminente entrata in funzione del nuovo ospedale. Regione e comune sono orientati verso l'abbattimento. Non la pensa così un comitato di cittadini che ha presentato le proprie ragioni. Nell'acceso dibattito politico e non solo che anima la città sull'abbattimento dei vecchi padiglioni dell'ospedale civile di Pordenone, prende parola anche il Comitato Salute Pubblica Bene Comune, architetti e urbanisti che chiedono il recupero delle strutture A e B progettate dall'architetto Donadone, che definiscono un pezzo della nostra storia. I componenti del comitato, presente anche la figlia dell'architetto Donadon, chiedono innanzitutto il progetto complessivo dell'area e si dicono pronti a un eventuale referendum sul destino dei padiglioni. L'architetto urbanista Giuseppe Vespo. Ci sono circa 7 milioni di euro di costo di abbattimento dei padiglioni. Inoltre, questo l'abbattimento, la demolizione, consiste anche in una produzione di inquinamento che è dovuto sia al trasporto del materiale di rifiuto, sia anche a quello che sarà la conseguenza di consumo di acqua, consumo di energia e quindi anche inquinamento dovuto agli automezzi pesanti e leggeri che si dovranno spostare per... Secondo i proponenti, i padiglioni recuperati potrebbero ospitare importanti servizi come una RSA o una casa della comunità. Per regione e comune, l'abbattimento dei vecchi padiglioni è la scelta migliore visto l'alto costo della loro ristrutturazione. Il sindaco Alessandro Ceriani. È evidente che va preservata anche la storia della città in nome di Donadon. ma se i tecnici sanitari definiscono quei padiglioni assolutamente inutili, costosi da rimaneggiare, costerebbe il triplo e invece chiedono una struttura più agevole, più agile, più funzionale, è evidente che ogni tanto bisogna anche affidarsi ai tecnici. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vertenza a Varzila, a Trieste, i tre segretari nazionali dei metalmeccanici di CGL, CISL e UIL hanno inviato al ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti una richiesta di incontro urgente per dare continuità a quello del 27 luglio scorso. Nella richiesta i sindacalisti ricordano l'annunciato licenziamento di oltre 700 dipendenti tra diretti appalti e i tempi ristretti della procedura di legge. Infine chiedono di conoscere i termini del progetto Industria del Mare, annunciato dallo stesso Giorgetti proprio nell'incontro del 27 luglio. Bene gli strumenti individuati, ma le risorse stanziate sono largamente insufficienti rispetto alle esigenze di lavoratori e pensionati, dice il segretario regionale CGIL William Pezzetta, commentando le misure sulla decontribuzione dei salari e la rivalutazione delle pensioni del decreto aiuti bis varato dal governo. Su una manovra complessiva di oltre 14 miliardi, appena 1,5 vanno a finanziare le due misure specifiche su salari e pensioni, spiega Pezzetta. L'entità della misura e delle risorse stanziate è totalmente insufficiente rispetto alla gravità dell'emergenza redditi che colpisce pensionati e lavoratori, conferma il segretario regionale dello SPI CGIL Roberto Treu. È evidente che i 500 milioni di euro stanziati sul fronte pensioni sono poca cosa rispetto alla perdita di potere d'acquisto subita dai 16 milioni di pensionati italiani, anche alla luce del fatto che più della metà delle pensioni, anche in questa regione, è al di sotto dei 1000 euro lordi mensili. Parliamo ora di Civibank. Il Consiglio di amministrazione ha approvato gli schemi contabili al 30 giugno. Si tratta della prima situazione infrannuale post entrata della banca nel gruppo Sparkasse. Il risultato è positivo per 10,3 milioni di euro, ma l'adeguamento dei criteri di valutazione, in particolare l'innalzamento delle coperture sul credito deteriorato, determinano un risultato contabile di meno 19,6 milioni di euro. 375 milioni di euro di nuovi finanziamenti erogati a favore dell'economia locale, di cui 149 milioni di finanziamento alle famiglie e 226 milioni alle imprese. I proventi operativi netti sono in forte crescita con oltre il più 15% e il risultato netto della gestione operativa è pari a 27,7 milioni, dunque in crescita del 4,6%. C'è anche la sezione Polizia Stradale di Udine tra i 10 vincitori dell'edizione di quest'anno del Premio Ambiente e Legalità di Legambiente e Libera. Amministratori locali, giornalisti, rappresentanti delle forze dell'ordine e delle capitanerie di porto, magistrati che quotidianamente contrastano le attività degli ecocriminali. I riconoscimenti assegnati, ha spiegato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, ben raccontano l'impegno concreto per contrastare le illegalità ambientali che minacciano l'ambiente, ma anche la salute dei cittadini e l'economia sana della penisola. Passiamo alla cultura. In mostra a Trieste quadri e documenti e memorie degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Si tratta di una nuova mostra intitolata Tesori, per non dimenticare la tragedia del grande esodo e quello che ne seguì attraverso l'arte e i libri, ma anche oggetti di vita quotidiana mai esposti prima. Recuperare e conservare tradizioni, storie e progetti di un popolo senza radici, ma i cui semi hanno germogliato in ogni parte del mondo. È la mostra Tesori, aperta a Trieste, in via Torino, nella sede dell'ICRI, l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata, con l'omonimo libro che ne ripercorre le vicende. È la storia di un popolo che ha saputo farsi valere in ogni campo, dalle scienze all'arte, al lavoro, nonostante il dramma dell'esodo, perché dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quelle terre, le loro terre, non erano più Italia. Tesori è il senso della memoria recuperata e conservata, dall'opera d'arte all'oggetto, dal libro alle stampa ai documenti, che parlano di un popolo senza più terra, ma che ha ancora molto da dire. Il curatore della mostra e direttore dell'ICRI, Piero Del Bello. Riuscire a mettere in piedi la memoria del nostro popolo è il significato di questa mostra. Negli anni, grazie a donazioni, grazie anche alle acquisizioni, siamo riusciti a costruire un patrimonio che va dal quadro di Cesare dell'Acqua alle vignette in china originali di José Coleman per la Cittadella. Tutte queste cose fanno parte del nostro patrimonio. I documenti del Selene dell'Istria, quelli di 48 Gambini e poi una raccolta di medaglie stupenda. Il lavoro dell'ICRIA è stato possibile grazie al sostegno di molti enti pubblici, ma non solo. Il presidente dell'istituto, Franco De Grassi. Abbiamo avuto un'infinità di donazioni da istriani, fiumani e dalmati che hanno, diciamo, in qualche modo arricchito questa collezione donandoci parte dei loro averi. Trieste, Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. La rassegna Vostanis si apre con l'inaugurazione di Onosai, mostra firmata dall'artista Maria Elisabetta Novello. L'iniziativa intende sollecitare il desiderio di vedere, invitando lo spettatore a muoversi tra le installazioni con elementi precari come polvere e luce per attivare le capacità interpretative e critiche sulla figura di Pierpaolo Pasolini. La mostra sarà aperta al pubblico durante gli appuntamenti di Vostanis dalle 19 alla mezzanotte fino all'11 di settembre. L'inaugurazione a Villa Caccia di Lestizia, l'agriturismo e Colonos alle 21. Cambia il luogo e l'orario del concerto di Benjamin Clementine al No Borders Music Festival. Viste le previsioni meteorologiche a Sella Nevea, per garantire la sicurezza di pubblico, artista e addetti ai lavori e per assicurare l'evento, il concerto, già previsto alle 14 al Rifugio Gilberti, si terrà invece alle 12 ai Laghi di Fusine. I biglietti già acquistati rimangono validi. Il cartellone della rassegna Palchi nei Parchi prosegue con i luoghi della Cornamusa a Forni di Sopra alle 11. Il programma della 24esima edizione del Festival Internazionale di Musica e Territori nei Suoni dei Luoghi prevede il concerto Musiche dal Mondo con i percussionisti friulani a Pradamano in Piazza della Chiesa alle 21. Per la rassegna Teatri fuori dai teatri, Bruna Braidotti e Bianca Manzari in scena con la Commedia delle Donne ad Aviano in Piazza Duomo alle 21. Appuntamento conclusivo per la 12esima edizione dell'Area Danza Urban Dance Festival con 4 spettacoli in programma a Venzone in Piazza del Municipio dalle 17. Andrea Cosentino con lo spettacolo comico Not Here Not Now per la serata conclusiva della 6ª edizione del Festival a Prodi a Trieste, auditorium Marco Sofianopulo del Museo Revoltella alle 20:30. A tutta musica lo spettacolo di operetta con Andrea Binetti e Marza Postogna in scena a Piancavallo di Aviano in piazzale Mario della Puppa alle 17:30. E al via anche la rassegna Un Calice a Teatro che oggi propone lo spettacolo News in the Knot della compagnia Sotlanap a Casarsa della Delizia nel frutteto di Palazzo Burovic alle 21. I piccoli di Podrecchio, lo spettacolo diretto da Barbara Della Polla e prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in programma a Trieste al Parco di Miramare alle 17. Inizia la 23esima edizione della rassegna Agosto Archeologico con l'inaugurazione della mostra Cris di Vali, misteri di una grotta tra storia e religiosità, mostra dedicata appunto a una piccola grotta delle Prealpi Carniche, già frequentata in epoca preistorica e oggetto di culto con processioni e rogazioni per invocare la pioggia. La mostra presenta una sintesi delle testimonianze conservate al suo interno e sarà accessibile fino al 28 agosto. A appuntamento a Chiaulis di Verzegnis alla casa di Gisofiora alle 11. E quindi uscimo a rivedere le stelle. Terza edizione dell'iniziativa organizzata dalla delegazione FAI di Pordenone verrà aperta dalla visita a Polcenigo di Palazzo Zaro dalle 18 e per ogni mezz'ora fino alle 19:30. A seguire l'appuntamento a Mezzomonte per osservare il cielo notturno e scoprire le stelle del periodo alle 20:45. Relatore Mauro Rui dell'Associazione Astronomia e Meteorologia del Friuli Occidentale, a cui abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento. Cosa possiamo vedere? Dalla cornice bellissima di Mezzomonte, perché è una tribuna proprio sul cielo, non è adatta per il cielo profondo, chiaramente, tipo galassie e roba del genere, perché ci vuole cieli scuri. Noi abbiamo un po' di inquinamento anche luminoso da parte della pianura e dunque ci permette di vedere alcuni oggetti stellari che sono interessanti, oggetti tipo il grande ammasso chiuso di Ercole e anche suggestiva sulla lira, ad esempio in considerazione sulla lira, la nebulosa Anello. Ecco, questi sarebbero due oggetti interessanti che possiamo vedere anche da Mezzomonte. Il triangolo estivo composto da Deneb, Vega e Altair, che sono praticamente della costellazione del Cigno, della Lira, che abbiamo parlato prima, e dell'Aquila. Sono tre stelle bellissime, ma sarà concentrata la serata sulla Luna. Questa Luna, che è sempre mutevole, è l'unico satellite naturale della Terra praticamente, che affascina sempre. Questa Luna che questa sera supera il primo quarto e siamo già in gibbosa crescente, dunque non è notevolmente luminosa e non impedisce a vedere degli stralci belli dei crateri oppure della sua superficie, insomma. Per quanto riguarda, qualcuno si aspetta magari di vedere qualche pianeta, perché i pianeti fino ad ottobre si fanno attendere a quell'ora lì. Perché? Perché verso mezzanotte già sorgono Saturno e Giove, sua maestà, e purtroppo l'ora è tarda per tutti. Ora lo sport, il calcio, primo impegno ufficiale ieri per l'Udinese, che allo stadio Friuli Dacia Arena ha battuto per 2-1 Feralpi Salò nel primo turno di Coppa Italia. Per le condizioni climatiche 33 gradi si vede anche un buon calcio. L'Udinese con qualche piccolo rischio passa il turno in Coppa Italia e può serenamente concentrarsi all'esordio in campionato sul campo del Milan scudettato sabato prossimo. Il finale contro la Feralpi Salò, squadra di C, inserita nel girone con Pordenone e Triestina, di 2-1 per i friulani, che dominano sul piano del gioco ma concedono tanto ai volonterosi avversari. Protagonista Gerard Deulofeu, il catalano sembra già in discreta forma e salta l'uomo con facilità, e lui dal dischetto a segnare al 12° il primo gol ufficiale della stagione bianconera, dopo che Success era stato atterrato in area. Esecuzione perfetta e 1-0. Sirigardi prova a rispondere su punizione, bravo Silvestri, poi lo stesso Deulofeu sfiora il bis sempre su calcio piazzato al 35°. Nella ripresa i ritmi si abbassano e paradossalmente l'Udinese soffre di più, non riescono più le verticalizzazioni su Pereira, ma la Feralpi pasticce e regala il 2-0 al 64°. Ottima palla recuperata dalla piacevole sorpresa. Ottima palla recuperata dalla piacevole sorpresa Lovric, conduzione centrale ancora di Deulofeu che dà a Success un pallone solo da spingere in porta. Il nigeriano pasticcia un po', ma riesce comunque a raddoppiare sulla ribattuta. La squadra di Sottil però poi si complica un po' le cose da sola. Sirigardi sul filo del fuorigioco beffa Perez e accorcia le distanze con un gran sinistro da fuori 3 minuti più tardi. Invece di controllare, i friulani perdono palloni. Al 70° Cernegoi si mangia il pari da 2 passi di testa. Balestrero sbaglia un rigore in movimento al 78°, facendo arrabbiare Silvestri, ed è lo stesso portiere dell'Udinese a salvare la qualificazione ancora su Cernigoi, che va via un Perez parso poco concentrato. Passata la paura, la squadra di Sottil gestisce con più pazienza il pallone e colleziona corner in attesa del fischio finale. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora calcio, fine settimana di incontri amichevoli per il Pordenone dopo la ripresa degli allenamenti. Oggi alle 18 i neroverdi saranno impegnati con la Dolomiti Belluminesi allo stadio Zugni Tauro di Feltre. Domani domenica sempre alle 18 in programma l'amichevole con il Tor Viscosa allo stadio Beppino Tonello di Tor Viscosa. Entrambi gli incontri saranno a ingresso gratuito. Ieri ha giocato anche la Triestina contro l'Adriese, formazione di Serie D. Gli Alabardati hanno vinto per 4-3. Tennis, i risultati dei quarti di finale della ATP Challenger 80 di Cordenons, torneo dotato di monte premi di oltre 45.000 euro che si disputa sui campi in terra battuta dell'Eurosporting. Ieri Andrea Valvassori ha battuto Mattia Bellucci per 2-6, 7-6, 4-1 con ritiro del secondo. Lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran ha sconfitto Matteo Arnaldi per 7-6, 7-5. Esce nei quarti anche Andrea Pellegrino, che cede al francese Alexandre Muller per 6-4, 7-5. Il cinese Ji Zhenzhang si è imposto in 2 set 7-6, 6-4 su Andrei Chepeliev oggi a partire dalle 15, le semifinali del singolo maschile, non prima delle 17:30 la finale del doppio. E nell'ambito degli eventi dell'Eurosport in Cordenos dalle 10 gli atleti potranno provare la nuova disciplina di parapadel con le carrozzine dedicate. Prima edizione della cronoscalata dell'Arzino Casiacco Som Cook, gara di corsa in montagna, cronometro individuale. La manifestazione è organizzata nell'ambito della festa di Mont e all'interno del calendario del Trail Running Tour Friuli Venezia Giulia, circuito che racchiude le principali competizioni di corsa in montagna, vertical race e trial della regione. Primo atleta al via alle 18, percorso da 5 km e 400 metri, quasi tutti in salita, con dislivello positivo di 620 metri. Sono le 7.47, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani che oggi trovate in edicola. Il Piccolo di Trieste apre con la mancanza di offerte per il restauro del pontone Gru Ursus a fronte di una gara da oltre 4 milioni di euro. Più difficile ora il recupero in chiave turistica della struttura. Fatto notizia per i 70 anni della filovia numero 20 di collegamento tra Trieste e Muggia, poi sostituita nel 1972 da un autobus. Per l'economia, l'appello dei sindacati al ministro Giorgetti per la crisi della Varsila, di cui vi abbiamo appena dato conto. Per la cronaca, l'interesse dimostrato da un'industria del settore caffè per l'acquisizione di Palazzo Carciotti, per il quale l'amministrazione cerca un compratore dal 2018. Spazio poi alla proroga della perizia medico-legale sulla morte di Liliana Resinovic, disposta ieri dalla Procura di Trieste per questioni tecniche. Il fascicolo di indagini per ora non ha individuato indagati per la donna ritrovata a cadavere lo scorso gennaio. Per le infrastrutture, la riapertura anticipata di lunedì di Via Ginnastica, chiusa al traffico per lavori di manutenzione idrico-elettrico. Ritocchi alle pensioni, sindacati non basta, il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine, che nella fotonotizia fa il punto sul costo della benzina. Dopo il picco a 2 euro torna a scendere il prezzo dei carburanti. Di spalla scoppia un'altra rissa alla Cavarzerani, troppa tensione, dice il viceprefetto Leo, struttura satura, chiesto il trasferimento fuori regione per gli ospiti in sovrannumero. Malore mortale durante un incontro nel municipio di Resia, morto Nereo Peresson, insegnante di agraria ed esperto di piante autoctone. E ancora, dopo anni di attesa, arriva un pediatra che prende servizio a Martignacco. In taglio alto Civibank fa pulizia dei crediti deteriorati, sparcasse, utili, record, ipotesi, quotazione. A fianco si estende la mappa di Friuli Doc, aderiscono 50 proloco, tema che apre la cronaca cittadina. In taglio basso il successo dell'Udinese nel match di Coppa senza Udoge. Telecamere antibulli sugli autobus, la richiesta degli autisti al consorzio delle quattro aziende del TPL in apertura sul Gazzettino. L'Udinese vince ma con troppa fatica nella fotonotizia. Richiami in prima anche per la turista che a Lignano ha sventato un furto in tabaccheria dal terrazzo di casa, per la politica regionale in vista del voto di settembre. In taglio basso tre appartamenti per il vivere autonomo dei disabili a Udine con i fondi PNRR. Il Piccolo di Gorizia apre sul piano comunale di riqualificazione urbana che con il bando Borghi ha in un piano triennale a disposizione 20 milioni di euro per la ristrutturazione della zona nord del quartiere Straccis. Lavori di ammodernamento sono previsti anche per la piscina comunale di via Capodistria a fronte di uno stanziamento di 1,5 milioni di euro, pianificate due corsie in più nella struttura. Fotonotizia per la riapertura della strada del Vallone con un reportage nelle zone più colpite dagli incendi dei giorni scorsi. Capocronaca di Monfalcone, la ristrutturazione a Marina Giulia del complesso denominato Nave di via delle Giarrette, già prevista per fine mese ma ora posticipata, data da destinarsi a causa della difficoltà di reperimento materiali. Dalla pagina di Turriaco, la sospensione degli eventi del mercoledì dedicati ai minorenni in seguito agli atti vandalici commessi da giovanissimi in paese. Anche sul Gazzettino di Pordenone la richiesta di maggiore sicurezza per gli autisti dei bus locali. Nella fotonotizia, referendum per salvare i padiglioni A e B dell'ospedale, ad annunciarlo in caso di mancato confronto con la città è il Comitato Salute Pubblica Bene Comune. Affidati alla nonna i figli della coppia dello schianto, i 5 bambini di Manuel Cari e Chiara Materassi, giovanissimi genitori di Fontana Fredda morti in un incidente a marzo. In taglio basso Basso, cittadinanza rifiutata a una donna ucraina per una multa al figlio cui 8 anni fa era stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza. Di fianco Cesare Ciani, 18 anni, da Sacile, oggi correrà la finale mondiale Under 20 dei 3.000 siepi. Sul Messaggero Veneto, a differenza dell'edizione di Udine, anche qui in prima i padiglioni ospedalieri, un referendum sull'abbattimento. Sotto Boscaglia in fiamme, vicino a un deposito di munizioni a San Vito, si sospetta il dolo. E in taglio alto richiamo per i 20 milioni di euro per migliorare acquedotto e depurazione a Pordenone. Segnaliamo ora altri appuntamenti odierni: il mestiere delle armi e i terribili lanzichenecchi e il nuovo evento di rievocazione storica della rassegna Le stagioni delle armi. Appuntamento a Trieste, al Castello di San Giusto, previste 4 visite guidate con inizio alle 10.30. A Trieste la Biblioteca 48 Gambini e la Biblioteca Ortis sospendono i servizi al pubblico per consentire la revisione e il riordino delle collezioni librarie. La 48 Gambini riaprirà il 22 agosto, tutti i prestiti in scadenza verranno prorogati fino alla riapertura. La Ortis riaprirà il 29 agosto, si ricorda che la biblioteca digitale non chiude mai, garantendo il prestito di libri elettronici, quotidiani e riviste online. La Questura di Pordenone ha organizzato per oggi e domani l'apertura straordinaria dell'ufficio passaporti per chi ha già ottenuto l'appuntamento con prenotazione online e abbia urgenza di intraprendere un viaggio all'estero per comprovati motivi di salute, lavoro, studio. L'accesso all'ufficio è in programma dalle 8.30 alle 12.30. Le richieste di rilascio urgente di passaporto dovranno essere inoltrate all'indirizzo ammin.quest.pn@pecps.poliziadistato.it, allegando documentazione all'urgenza, ricevuta di appuntamento online e data di partenza prevista. La Questura risponderà via email con la conferma di appuntamento. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con la quarta puntata di Parapunzi, rivista radiofonica in dialetto triestino realizzata nel 1992 nel solco di El Campanone. Caris Tornei si caratterizza per il susseguirsi di macchiette triestine dosate dalla brillante conduzione di Ruggero Winter e Nereo Zepper, che ne era anche regista. A mezzogiorno l'appuntamento con Bonbon, 30 minuti di leggerezza ed umorismo per affrontare il weekend con buon umore. In regia Eugenio Giuffrida e Bruno Montevecchi, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.